Io sono qui. Voi siete qui. Di Matteo Caccia. Allora mi giro e corro. Corro in prima base, più forte che posso. Sbatto la zampa sul sacco e poi corro in seconda base, più forte. Poi corro in terza e poi penso: ma cosa corro a fare? Ho fatto fuori campo. Sono Emanuele, vivo a Roma, ho 45 anni e sono un programmatore. Sono sposato, ho due bambine, Laura e Sofia, e a 12 anni mi sono ritirato dai campi di baseball. Moltissime storie sono storie piccole che ci capitano in momenti remoti della nostra esistenza, in piccoli angoli della nostra vita che spesso ci dimentichiamo. E poi vengono fuori chissà come, boh, chissà perché, non si sa perché i ricordi vengano a galla in alcuni momenti invece che in altri. E a Emanuele a un certo punto viene fuori questa storia, si ricorda questo momento, che è un momento di vita, è un momento di vita e di sport minuscolo, ma che è tutti i toni e tutti i crismi della grande epica moderna. Queste voi siete qui. Questa è Radio 24, ogni giorno raccontiamo storie e oggi raccontiamo la storia di Emanuele. Io sono Matteo Caccia, buongiorno a tutti, è un bel lunedì 9 dicembre del 2012, sono le 16 e quasi 10 minuti in punto. La storia di Emanuele racconta questo, racconta di un momento epico della vita di un ragazzino di 12 anni, però racconta anche un momento che capita non solo a 12 anni, che è quando fai una cosa che ti viene così bene che tu stesso dici: no, dai, non ci credo. 349-238-6666, profili Facebook e Twitter del programma, che sono Voi Siete Qui Radio 24 il primo, Voi Siete Qui R24 invece il profilo Twitter. Il mio profilo Twitter banalmente è Matteo Caccia, e già Beatrice ci scrive a proposito di cose per le quali noi stessi, no, lo ammettiamo, non ci credevamo. Lei racconta, è un po' lunga la storia, quindi la accorcio. Lei racconta di una traduzione di latino che fa a scuola, perché spesso quelli sono i momenti, no? Quando ti testi, quando provi qualcosa, e i compiti in classe, gli esami sono sempre un banco di prova. E deve fare una traduzione di latino, non è un granché lei nel latino. Dice: però una volta l'argomento della traduzione riguardava un episodio storico che conoscevo casualmente molto bene. Lo conoscevo talmente bene che traducevo senza vocabolario e le parole mi uscivano di getto. Non ci volevo credere nemmeno io. Lessi e rilessi la mia traduzione, era perfetta. Qualche giorno dopo, la mia soddisfazione si tradusse in una grande frustrazione, perché per il resto della classe quella traduzione fu un disastro e soltanto per due persone erano perfette. Quella di una compagna, bravina ma mai bravissima, e la mia. Ovviamente, venne accusata io e solo io di aver copiato dall'altra mia compagna ed il compito venne annullato a tutta la classe. Immaginate come mi potevo sentire io, nell'incapacità di dimostrare che invece era tutto farina del mio sacco. 349-238-6666. Se avete voglia di passare 10 minuti a vedere un film per la radio, perché l'avete già vista questa scena, l'avete già vista in mille film americani perché parla di baseball, casualmente, anche se siamo in Italia, ma la conoscete. È proprio un momento in cui improvvisamente il tempo si ferma, qualcosa colpisce una palla e quella palla si prolunga nel tempo e nello spazio. Questa è la storia di Emanuele. Militavo in una squadra di baseball. Avevo 12 anni, forse meno. Ero uno scricciolo. E avevamo anche le divise. Erano delle sorte di kimono bianchi coi pantaloni lunghi, troppo corti e a zampa. Da noi si dice a zompo a vuosso. Di un cotone che pungeva. Avevamo anche delle magliette a maniche lunghe, magliette orribili, a strisce verticali verdi e rosse. Un pugno nello stomaco e un calcio altrove. Sembravamo dei pulcinella idioti fissati per la Ternana. Insomma, ci iscrivemmo al campionato Under 14 in Italia. Forse esisteva un unico campionato Under 14 in Italia, che fortunatamente è suddiviso in nord, sud e isole. Insomma, facemmo 6 partite in tutto. Napoli, Bari, Salerno, Teramo, Anzio e Nettuno. Era facile, l'allenatore ci caricava in auto e ci portava in trasferta. E a pensarci, nessuno veniva ad Avellino. Che sarebbero mai dovuti venire a fare ad Avellino loro? È una città così brutta che è meglio giocare sempre in trasferta. Il baseball è uno sport molto bello, molto affascinante, ma pochissimo praticato in Italia. Sebbene esistano delle zone dove è abbastanza praticato, in particolare ad Anzio, a Nettuno o dovunque ci sono le basi americane, perché gli americani l'hanno portato dietro con sé. Anzio e Nettuno sono le squadre più forti del mondo. I suoi under 14 se la battono con le prime squadre professionistiche di Houston e Cincinnati. Insomma, facemmo 6 partite e sommammo circa 400 punti di perdita. 30-0, 45-0, 38-0 e così via. Ultima partita ad Anzio. Under 14, ma erano dei mastodonti, forse avevano tutti 14 anni meno un giorno. Insomma, siamo in partita. Stiamo perdendo 69-0. Che dico, 69-0? Ma non hai neanche il tempo di farli 69 punti in una partita. Stai lì sempre a girare in tondo, ma che sfizio ci trovi? Basta, no? Gestisci il vantaggio. Cosa mi fai, la volata? Ma dico, pure per cortesia verso gli ospiti, dai, è volgare. Insomma, siamo al nono inning. Siamo in battuta. Due dei nostri sono già out. E l'allenatore cosa fa? Mi mette in battuta. A me. In battuta. Io non so neppure che cos'è una battuta. Sono un esterno destro. Sono più esterno che destro. Cioè, sono così esterno che sto sempre fuori dal campo, in panchina. E invece no. L'allenatore mi mette in battuta. A me. Ma che sei scemo. Dai, vai, mi dice. Forza. Ma non ci crede, ovviamente. Si vede che non ci crede. Che poi perché mi devi far piangere adesso? Ho 12 anni, sono uno scricciolo, sono vestito nel modo più ridicolo dell'universo e mi metti in battuta per rendermi ancora più ridicolo. Arrivo sul diamante in casa base e aspetto. E via, strike 1. La palla mi passa oltre senza che nemmeno la veda. Secondo, ball. Troppo larga perché potessi prenderla. E poi ancora, ball, meno male. Penso che il lanciatore si sia stufato. Magari vuole farmi passare dritto in prima base, succede a 4 ball di fila. E invece no. Strike 2, ok, vuole infierire. Io sto per piangere, lui lancia ancora, io rimango immobile. E ancora un ball, dai, finiamola con sto strazio. Io non ho nemmeno mosso la mazza fino a quel punto. Ferma, all'altezza della spalla, come l'osso di un prosciutto. In compenso, quando il lanciatore lancia, io chiudo gli occhi. Boh, non si sa mai. Tante volte mi colpisce con la palla e finisco gratis in prima base. Ed eccolo, lui lancia. È l'ultimo lancio, meno male. È finita. Come va, va e esco. Io lo guardo. Ha il braccio dietro che carica. Fa la torsione. Tira fuori la palla dal guantone. Io chiudo gli occhi. Cosa devo fare? Chiudo gli occhi, ovviamente. Non sono coraggioso io. E sento distintamente il rumore della palla che arriva e non si sa che cosa nell'universo muove la mazza. Io ho gli occhi chiusi e... Shtac! Sento un boato. L'intero stadio che urla. Tutti urlano. Io letteralmente me la faccio sotto. Allora apro gli occhi, mi guardo attorno e vedo l'arbitro dietro di me, con la bocca aperta, muto anche lui. Mi giro verso il campo e la vedo. La palla supera il lanciatore, va dritta sopra la seconda base, i due esterni convergono al centro, ma lei, la palla, va in alto, lontano, lontano, lontano, supera la recinzione ed è un fuoricampo. And if you see all night you smile, selling laughter from a can. Go tell him that the dream still fits the plan. And that's why we're waiting at the table. Yes, he's welcome at the stand, and I won't mind. The moment you can say that you saw in a dream, how you can let me know any way that you've seen a day. No more to pay. The trouble came in droves. But we drove it away. We get weaker, mad with no words to say. We get mad waiting, always waiting to get paid. Darling, we get mad giving too much away. Now, baby, I won't lie, I didn't want to say. Until I heard in a dream how I can let you know. Anyway, that I've seen a day. Trouble came in droves, but trouble drove away. Ah, I see you get mad with no words to say. And you see me waiting, always waiting to get paid. Darling, we get mad giving too much away. quel punto io sono oltre la paura, ma non so cosa devo fare. Cosa devo fare? Non esiste nell'universo che io batta un fuoricampo. Cosa faccio adesso? Cosa si fa quando uno fa un fuoricampo? Ditemelo. Tutti urlano. Ma cosa urlate? Ditemi cosa devo fare. Inizio a sentire dell'umidità nella tuta da pulcinella idiota coi calzoni a zampa. Una vergogna incredibile. Ah, ecco, me lo ricorda l'allenatore, quello dell'altra squadra. L'allenatore del Lazio mi si avvicina minaccioso. Si avvicina e mi urla, e urla proprio come un pazzo. Corri, corri! La palla è lì, in aria, sembra ferma, ma va sicuramente fuori campo. E un vero giocatore adesso corre, e quindi lui mi urla, corri! E io mi prendo paura, e quindi corro. Corro come un forsennato, corro. Perché in realtà non mi ero proprio reso conto di quello che era successo. E quindi rimanevo fermo, sono rimasto imbambolato ad attendere che cosa doveva succedere. Quindi è anche abbastanza difficile fare una cosa del genere, tirare un fuoricampo in una partita, insomma. Corro verso il centro del campo, però. Corro verso il lanciatore invece che verso la base. Dritto verso il lanciatore. Più che correre, scappo. Tutti urlano, tutti. Amici, nemici, passanti, italiani, americani, bianchi, neri, ma che urlate! Dicono il mio nome, Emanuele! Non si capisce niente, è il caos totale, cosa vogliono da me? Il lanciatore mi viene incontro e mi urla, là, di là! Mi viene vicino, stende un braccio e urla, coglione, devi correre in base! Mi dice proprio così, coglione. Oh, ma chi ti conosce? Ma che tra 10 anni faremo il militare assieme, no? Ma chi sei? E lui ancora mi ripete, devi correre di là! Allora mi giro e corro in prima base, più forte che posso. Sbatto la zampa sul sacco e poi corro in seconda base, più forte che posso. E poi in terza base, più forte che posso. E poi... ma cosa corro? Ho fatto fuori campo. Sono loro. Devono aspettare me. Ora. E allora me ne vado lentissimo. Lentissimo. A casa base. E tutti urlano. Io saluto. Il cuore mi batte, alzo le braccia, io rido, loro ridono. Si divertono, battono le mani, urlano il mio nome, tutti. Quelli di Anzio pure. Pure l'altra squadra mi batte le mani. E sono contenti. Io non capisco, quantomeno però non mi vogliono menare, è già qualcosa. Il ricevitore si è levato la maschera e mi applaude. Anche l'arbitro mi applaude. Sono contenti, tutti applaudono. L'allenatore no, lui non applaude. È rimasto lì, inebetito. Tutta la mia squadra mi guarda come se fossi un alieno. Forse si sono accorti che esisto. E intanto abbiamo fatto un punto. Il primo punto. L'unico punto della partita. E in quel momento lì io ho pensato una cosa. L'ho pensata seriamente, che uno dice, ma no, non è vero, dai. Non puoi averla pensata. Te lo ricordi così, ma non è vero. No, ti giuro, io l'ho pensata. Avevo 12 anni e l'ho pensata così, questa cosa. Camminavo verso casa base e pensavo, bene, ora posso smettere. Basta col baseball. Quando sei un campione, devi smettere all'apice del successo. Ha una bella faccia piena e simpatica Emanuele nella foto che ci ha mandato e che trovate sul sito di Radio 24, sempre lì, sempre alla nostra pagina, quella dove trovate anche i podcast e in streaming tutte le puntate passate. Voi siete qui sul profilo, sulla pagina di Radio 24. Ha gli occhi castanissimi, le sopracciglia leggermente arcuate, che potrebbero quasi sembrare cattive, sapete l'espressione, quelle con le sopracciglia un po' in giù così. La foto è piccola, ma si intravede un foulard al collo di Emanuele, che adesso l'azzardo, potrebbe essere un foulard che ti metti al collo quando sei in vacanza in Egitto e ti portano nel deserto a fare i giri con le moto. Oh, io ci ho provato, Emanuele, era eccessivo effettivamente, immaginarselo. Dove sei in questa foto? Sono in vacanza in effetti, eh? Però sono in Sardegna e quella è una camicetta di mia madre. Ah, ok, avevi semplicemente il torcicollo o ce l'avevi al collo banalmente. Emanuele, io ho amato la tua storia tantissimo, perché ti vedevo dodicenne, piccolo e sparuto in mezzo a questi tutti che ti urlano di là e tu non sai dove andare, e però poi improvvisamente diventi un campione del baseball, perché poi da lì l'hai mollato, giusto, lo sport? Subito praticamente, va detto che anche il baseball ad Avellino non è proprio lo sport nazionale, ecco. Ma tra l'altro com'è che un ragazzino di 12 anni ad Avellino decide di fare baseball? Sinceramente, veramente non lo ricordo, non ricordo nemmeno come mai ci fosse una squadra di baseball e come mai qualcuno la tenesse. Ad Avellino c'è una base americana su nella montagna, però non mi sembra che fossero gli americani ad averlo organizzata questa cosa. Ma è vera questa cosa per cui a Danzio e a Nettuno sì, ci sono le squadre fortissime? A Danzio sono credo le squadre più forti italiane nel baseball, sono... Ma sono italiani però, non ci sono, come dire, infiltrati americani. Guarda, delle basi. Mi fai una domanda che... Chiaramente, tu, scusami, quanti anni hai adesso, Emanuele, me lo ricordi? Ce n'ho 45. Quindi sono passati... No, non solo, ma 33. Diciamo, occupandomi molto poco di sport, sia fatto che seguito, non ti so dire altro. Insomma. Senti, è arrivato un messaggio da... Piero da Firenze, però a sto punto non sappiamo rispondergli. Piero da Firenze dice: è impossibile perdere 69-0 a baseball. Esiste una regola nel baseball che si chiama manifesta inferiorità, che fermerebbe la partita. Lo so, però io ti assicuro che perderemo 69-1. Tu ti ricordi? Certo, a 1 ovviamente, infatti non a 0. Quindi probabilmente... Devo dire che questa cosa forse è anche dovuta al fatto che le regole potrebbero essere cambiate. Questa cosa mi è capitata con la pallavolo. Io mi ricordavo certo, delle 33 regole, anni fa, chiaro. Sono cambiate. Come no, il 25, il 15, a voglia. Sì. Cioè, quella roba anch'io mi ricordo, quella, non c'è più il cambio palla sostanzialmente. Sì, esatto. Cambio palla che si stava per ore sullo stesso punto. Cosa fai adesso, Emanuele, nella vita? Io faccio sostanzialmente il programmatore, mi occupo di trasformare in software le idee dei colleghi che sono ricercatori. Per una società? Sì, per un ente di ricerca sostanzialmente. Ma ad Avellino? No, sono a Roma. Ah, ok. E ad Avellino ci torni di frequente? Le feste comandate. Perché Avellino è una di quelle città, adesso chiaramente mi prenderò gli insulti di tutti gli avellinesi, un po' come Campobasso. Primo, che fai fatica a individuarla geograficamente. Secondo, che ti chiedi: ma cosa si fa ad Avellino? Cosa c'è? Perché Avellino, scusami, qual è la grande città? Beh, a parte che Avellino ci avrà un 200.000 abitanti, no? Credo che ne abbia 60.000. Perfetto, già la prima l'ho pestata. Invece, qual è la più grande città vicino ad Avellino? E c'è Napoli, no? Ovviamente Napoli, che dista... Dall'altra parte c'è Salerno. Quindi scusami, a quanto dista da Napoli Avellino? Una quarantina di chilometri. Quindi, cioè, sostanzialmente uno, la metropoli ce l'ha vicina, ce l'ha comoda. Sì, assolutamente. Quindi un sacco di avellinesi lavorano a Napoli, ma poi dormono, stanno ad Avellino, ovviamente. Penso di sì. Vabbè, stiamo facendo della geografia del lavoro fatta a caso su Avellino. Da quanto sei a Roma, invece? Roma sto da 13 anni, forse anche 15. Vabbè, ma sei al lavoro in questo momento, Emanuele? No, sono a casa. Ti sei preso mezza giornata? Sì. Giustamente, diciamo, siamo la più grande causa di gente che prende le ferie per mezza giornata probabilmente in Italia. Tra l'altro, una particolarità di questo racconto che mi ha anche in realtà creato un po' di difficoltà nel sistemarlo è che Emanuele mi ha mandato una mail che diceva: te lo mando così come è nato. più o meno questo era il tono, giusto Emanuele? Ed era un copia e incolla da una chat, da una chiacchierata in cui tu raccontavi questo episodio, giusto? Per cui poi prendere i pezzi... Tu subito ci hai visto il male, ma in realtà per noi informatici almeno la chat è uno strumento comune di lavoro, quindi può succedere. Certo, cioè può succedere che... No, tu capirai, essendo l'italiano medio, io quando penso alla chat penso, guardalo qua. Guardalo qua che è in chat, no, non è cioè, e invece no, semplicemente è uno strumento di lavoro. E questo racconto quindi nasce da una chat, cioè tu stavi raccontando a un'altra persona questa storia e noi ci abbiamo fatto una puntata. Tutto per dire che se non avete voglia o tempo o non pensate di non essere in grado di mettervi lì a scrivere una storia, guardate nelle mail, guardate nelle cose che avete scritto in giro, probabilmente la trovate. Emanuele, grazie ancora per la storia che ho adorato, grazie tantissimo. Buona giornata, grazie. Ciao. Ciao, buona giornata. 349-238-6666, in Italia la manifesta è sempre stata, non esiste in America più di 9 punti di distacco dopo tre inning, dopo il terzo inning, se non ricordo male. Saluti da Giovanni. Io ringrazio tutti quelli che hanno reso possibile anche questa puntata, ringrazio quelli che stanno continuando a mandare una marea di racconti. Devo dire che è aumentato il numero di racconti che continuano ad arrivare a voi siete qui, @radio24.it. Quindi oltre a ringraziarvi vi chiedo di avere un po' di pazienza, perché io e Tiziano ci mettiamo lì con calma e leggiamo tutto, questo ve lo promettiamo ogni volta e ce la facciamo. Se non riuscite ad ascoltare questo programma in diretta, scaricate il podcast dal sito di Radio 24, da iTunes, dalle app sul vostro smartphone, come volete, ma ascoltatevelo comunque. Scrivete storie, raccontate storie e ascoltatele. Grazie a Paolino Corleone, Tiziano Bonini, Margherita Ina. Grazie soprattutto a Emanuele, perché la storia di oggi era la sua e anche lui è un punto rosso su una mappa. Io sono Giada, sono di Rimini, la storia di domani è la mia e parla del compito su Dante. Questa è la mia storia e io sono qui. Franco Rosso, la vacanza con qualcosa in più. Vi ha presentato... Voi siete qui.